Tornando, cioè facendo un passo indietro, poi volevo farti un'altra domanda sull'elemento religioso, nella politica palestinese. Volevo chiedere come mai, stravince a quanto pare, Abu Mazen. Comunque, cioè, ho l'impressione, non so, leggendo qua e là sui giornali, sembra comunque che dalle, non so se si può dire, dalle masse arabe o comunque dalla società civile nei paesi arabi viene percepito come una cosa calata dall'alto, come appunto asservito agli americani, eccetera. Ovviamente non solo nei paesi arabi, anche in Europa, penso che sia abbastanza diffusa, questa opinione. Cioè, nonostante questo, i palestinesi in massa vanno a votare per Abu Mazen perché non esistono più alternative, perché non so qual è la tua opinione su questo. Ma sono discorsi complicati. Secondo me, da un certo punto di vista, c'è uno stimolo che è sempre stato presente, anche nei momenti in cui magari i servizi di sicurezza si sparavano addosso, per paradosso. Ma tra le varie componenti dei palestinesi si è sempre cercato, e in questi anni comunque le occasioni sarebbero state numerose, di evitare lo scontro, cioè di mantenere una sorta di unità del fronte della resistenza, anche a prescindere, cioè che andasse da Barghuti ai dirigenti della Jihad islamica, voglio dire. Sicuramente è chiaro che Hamas, che il contesto è questo sostanzialmente. Abu Mazen poi è comunque il dirigente di Fatah, che è da sempre diciamo così, il nucleo maggioritario all'interno dell'OLP e quello assolutamente maggioritario all'interno della gestione delle istituzioni, per cui comunque ha strutture, organizzazioni e rappresenta comunque una corrente storica della resistenza palestinese, quindi anche un certo grado di legittimità che era poi quello del gruppo di Arafat. Tipo Più una suggestione che specificamente, viene naturale, una suggestione che viene percepita come ovvia. in certi termini gioca questo elemento. In realtà ci sono anche dei fortissimi motivazioni di scontro poi all'interno di Fatah, che in qualche modo la fine la morte di Arafat, che era poi la persona che teneva insieme anche a livello proprio appunto personale, come simbolo, ma anche come rete di contatti, come vissuto, eccetera, eccetera, un po' tutta la causa palestinese, questi contrasti invece sono esplosi in maniera più forte. Però anche lì, nello specifico, la candidatura di Abu Mazen è una candidatura in cui all'interno di Fatah c'è stata esplicitamente una trattativa tra vecchi e giovani. Cioè sostanzialmente i giovani hanno accettato che Abu Mazen fosse il candidato unico di Fatah, e quindi questo era il momento per cui, era il motivo per cui in un primo momento Barghouti aveva presentato la candidatura e si era ritirato. Cioè, giocare la candidatura come un momento di pressione sulla dirigenza di Fatah e ritirarla nel momento in cui si aveva una serie di partite politiche in cambio, voglio dire. Questo per esempio è la genesi delle elezioni per l'Assemblea Generale di Fatah che ci saranno a luglio. Cioè, i giovani hanno detto: va bene, candidiamo Abu Mazen, sarà il presidente dell'autorità palestinese, però voi dovete garantirci un'occasione in cui noi possiamo in qualche modo far pesare la nostra voce all'interno degli equilibri interni di Fatah, che diventa comunque, rimane anzi, il principale gestore della resistenza palestinese e delle istituzioni palestinesi, però in cambio i vecchi appunto dovevano concedere questa assemblea. L'ultima elezione per l'assemblea generale sono state fatte, se non sbaglio, nell'88, quindi tutta la generazione dei 30-40enni cresciuti dell'intifada in pratica è stata tagliata fuori, proprio anagraficamente. Per cui la candidatura di Abu Mazen, riassumendo, è forte per un tot, per tutti questi elementi, per una sostanziale unità, perché la candidatura di Fatah e perché anche all'interno di Fatah è stato il catalizzatore di un accordo, la candidatura di Abu Mazen. Dal punto di vista di, per esempio, l'unica candidatura alternativa, che è quella di Mustafa Barghouti, è una candidatura alternativa che secondo me è eletta dai palestinesi in primis come complementare più che altro. Cioè, tutti sanno che Barghouti è un esponente della società civile che sostanzialmente al momento presente non ha la possibilità di fare politica come si fa politica mediamente in Palestina, cioè muovendo leve di potere, con i servizi d'ordine, mantenendo una struttura organizzata, eccetera, eccetera. È chiaro che da questo punto di vista i grossi calibri sono le varie correnti di Fatah e poi Hamas, diciamo l'islamismo organizzato. Per cui di fatto tutti i settori che contano con l'annuncio del boicottaggio di Hamas sono sostanzialmente d'accordo sulla candidatura di Abu Mazen, che però proprio nell'ottica dei discorsi che si facevano prima viene ad avere un senso molto più relativo, nel senso che dopo le elezioni appunto sarà bene tenere d'occhio cosa succede all'interno di Fatah, perché ormai la carica di presidente è una carica che sostanzialmente ha una forte legittimazione popolare, ma non è l'equivalente di quando il presidente era Arafat. Ormai per esempio tutta la questione finanziaria, che quindi è legata anche ai servizi d'ordine, la varia capacità di corrompere e oliare le macchine, è passata in altre mani, che sono quelle di Abu Ale, comunque è tornata a Fatah, diciamo così. Sì. Senti, ma diciamo che anche la candidatura e poi la ritirata dell'altro Barghouti, del Marwan Barghouti, diciamo che in quest'ottica potrebbe far parte di questi giochi politici interni al Fatah, e quindi di varie pressioni delle correnti minoritarie di insomma ottenere un ruolo all'interno di questo nuovo governo. Non so, pare che si è ritirato definitivamente ora o... Sì, dovrebbe essere definitivo il ritiro. No, sicuramente di base c'era dietro questo meccanismo. Io presento la candidatura, la ritiro quando ho ottenuto una contropartita politica. La cosa strana sul caso di Barghouti Marwan è che lui ha fatto questa cosa due volte, cioè ha presentato e ritirato la candidatura. Ha canteggiato un po', esatto, la tradizione. Da quello che diciamo così che si dice, che sostengono un tot di osservatori della politica palestinese, nel primo tentativo di Barghouti c'era più una, diciamo così, uno sfondo di negoziazione veramente giovani vecchi di Fatah. Sul Barghouti ad un certo punto avrebbe ripresentato la sua candidatura che aveva prima ritirato per dare un'ulteriore dose di pressione sul Fatah, soprattutto in merito alla sua situazione e quella di altri dirigenti in carcere. Cioè Barghouti è in galera con 5 ergastoli, per cui è ovvio che, nel senso, sì, ci sarà in qualche modo un processo politico che porta alla fine della sua carcerazione, o non uscirà mai sostanzialmente. Per cui la seconda volta qualcuno dice Barghouti, dopo aver ritirato la sua candidatura una prima volta, ha sentito calare da parte di Al-Fatah, dell'opinione pubblica internazionale, eccetera, eccetera, la pressione su Israele per ottenere il suo rilancio. Per cui ha detto, ah sì, voi vi dimenticate di me, che sono il garante dell'accordo tra i vecchi e i giovani, eccetera, eccetera, e allora io ripresento la mia candidatura. Bisognerebbe capire poi com'è finita, nel senso, se effettivamente Barghouti ha qualche possibilità di uscire di galera, cosa di cui io dubito comunque, sì, in assenza di svolte fondamentali. Si può ipotizzare, appunto, insomma, lo dicono gli israeliani, quindi... facciamo una pausa musicale e poi torniamo a parlare delle elezioni all'interno di questa puntata interamente dedicata alla Palestina. Un po' di pausa e poi torniamo sulle onde di Radioactive.